Quest'oggi il test attitudinale riguardava il soprannome di una celeberrima rockstar, ovvero Bono Vox, all'anagrafe Paul Davis Hewson. Come mai decise di chiamarsi Bono Vox? Forse, come diceva l'ipotesi numero uno, perché era già carino da piccolino e le ragazze in slang dublinese gli dicevano che Bono? Se avete scelto questa prima opzione sbagliata, ci dispiace, avete sbagliato. L'avevo immaginato. E allora forse era la numero due, ovvero la storpiatura di Buono, quello che diceva il pizzaiolo che portava le pizze in sala prove e apprezzava la voce di Bono Vox. È molto suggestiva, no, questa, devo riconoscerla, ma non è esatta. È quella che mi piaceva di più però. E allora per esclusione era la 3 quella esatta. Bono Vox deriva dal nome di questo negozio di apparecchi acustici a Dublino che si chiamava Bona Vox. Esatto, quindi abbiamo svelato l'arcano. Adesso sapete perché il leader, il cantante degli U2 si chiama così. Dovete essere informati, queste sono le informazioni, queste sono le notizie di base che un autentico rocker non può non sapere. Pane, burro e rock and roll vi aiuta a crescere. Never same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in force entry, don't believe in rage. But every time she passes by, wild thoughts escape. Don't believe in death row, skid row gangs. Don't believe in the Uzi, just went off in my hand. I believe in love. belli qua, anche i fratelli Van Halen, per darvi la spinta giusta anche in questo 4 di settembre. Jump, iniziare in salto la giornata, mentre il sole direi che è ufficialmente uscito, almeno qui dall'angolino di Piazza della Repubblica che intravedo dalle finestre di Rock FM. Sembrerebbe carino da parte nostra, visto che il sole è uscito, dargli il buongiorno, no? Come si faceva nella scorsa stagione, magari facendosi aiutare, perché no? Mi hai capito, Spadino? Da Wilson Pickett, pane, burro e rock and roll, l'unica trasmissione che vi cura con la buona musica. E intanto continuiamo con i saluti, no? Prima Wilson. Sunshine. Yeah, hello. I'm so glad to see you. Sunshine. Approfittiamo per salutare, perché no, Enrico, che elemosina un po' di punti per la sua patente, avendo passato l'estate a spaccarsi con i lavori di casa. Richiesta di strombazzata da Moreno da Milano, in trattativa per comprare un ristorantino favoloso, così segnala. Mi chiedere a Mr. Trombetta se può metterci il suo fluido portafortuna. Moreno, sta in una botte di ferro, eh? Ci devi una cena, così dovesse andar bene. Altri saluti, dai, sempre ricevuti al nostro numero di SMS. Abbiamo Zelda, una fedelissima che, come tanti altri, ci dà il bentornato, ma il suo messaggio mi è balzato all'occhio per un inizio di SMS che recita così: mi alzo come in un giorno qualsiasi in casa di amici. Zelda, va a una casa tua, no, eh? Sempre in giro. Saluto anche agli amici, comunque. Oh, Wilson mi casa. Altro messaggio che ha carpito l'attenzione della nostra redazione è un amico o un'amica che festeggia il compleanno della sua radio. Questo mi piace, non della sua radio nel senso che è editore, nella sua radio, quella che utilizza per ascoltarci. E mi piace molto questa cosa, perché vuol dire che c'è affetto anche per l'apparecchio proprio fisico. Una delle mie due radio, scrive, la Brion Vega modello TS-505 FM AM 3 band ACDC 1.6 WOTPPTT, compie 16 anni e non perde un colpo. Lei. Ciao, bravoni. E allora si festeggia! Buon compleanno, radiolina del nostro amico. 16 anni, sono tanti per una radio. Festeggiamo facendole sentire alla radio Ziggy Stardust, David Bowie. 8 e 40 minuti primi, pane, burro e rock and roll. Qua va tutto bene, là fuori. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in a snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the beer light to guide us? So we bitched about his fans, and should we crush his jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Una redazione che lavora alacremente per la costruzione secondo dopo secondo di Pane, Burro e Rock and Roll, la seconda stagione che vi ricordiamo punta molto in alto. Cosa fa Frick? Mi spieghi cosa sta facendo? Sto tentando di tradurre il concetto di lavoro alacre. La nostra redazione da qualche giorno ha preso di buzzo buono di segnalarci delle notizie buffe e bizzarre al fine di regalare positività ai nostri radioascoltatori. Il discorso è molto semplice: quello che è accaduto a loro, a voi con grosse probabilità non dovrebbe accadere. Dunque gioitene, dunque approfittatene, dunque state allegri. È successo a loro, non può succedere anche voi. Ci sono scarsissime probabilità che accada anche a voi. Pertanto iniziate col piede giusto, con lo spirito alto e spregiudicato e leggero questa vostra giornata, amici ed amiche di Pane, Burro e Rock and Roll. Con lo strano ma vero di quest'oggi ci trasferiamo in Inghilterra da un suo collega, maestro Frick, perché è un nano. No, è un nano, sì, ma non c'entra niente con lei. Ma è un cabarettista. No, lo so che lei in fondo pensa che io sia molto basso di statura. No, e dunque, nano ma vero. Nano ma vero è assolutamente appropriata per la notizia di quest'oggi, che effettivamente parla di un cabarettista, sì, ma nano. Ma non è questa la particolarità legata al nostro cabarettista inglese. Accade questo: durante la scenetta di uno spettacolo di cabaret, un cabarettista inglese è rimasto intrappolato con il pene all'interno del bocchettone di un aspirapolvere. L'uomo che peraltro è un attore nano, che risponde tra l'altro al nome di Daniel Blechner, in arte Captain Dan and the Demon Dwarf, si è esibito in un vecchio apparecchio che, avendo un discreto numero di anni sulle spalle, necessitava forse di qualche ritocco e di qualche revisione. Il bocchettone era staccato dal tubo, pertanto Blechner, poco prima dell'inizio dello spettacolo, ha utilizzato della supercolla, badate bene amici, della supercolla per ripararlo. Cari cabarettisti all'ascolto, soliti utilizzare aspirapolveri, non mettete della supercolla lì se poi lo mettete là. Molto giusto. Delle segnalazioni molto giuste. Comunque state allegri, ripeto, a voi non potrà capitare. Mentre finendo dal palcoscenico veloce ad una sala di pronto soccorso, il passaggio è veloce. Il pubblico, nonostante la situazione forse non certo piacevole, ha riso di gusto. Per l'attore è stata invece un'esperienza da dimenticare. Sentenza: è stato il momento più imbarazzante della mia vita. Gioite voi là fuori, oggi non dovrebbe accadere. Assolutamente no. E comunque bisogna dire che anche lui, nonostante la sfortuna, ha ottenuto un certo qual successo. Tutto bene, tutto positivo. Iniziate al meglio la vostra giornata. Yeah. broadcasting all programs. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Anche i Clash passano a trovarci quest'oggi. Potrei sentenziare 9 minuti alle 9 con un gioco di parole magistrale, gli ultimi minuti a nostra disposizione nella diretta di quest'oggi. Io ricordo ancora di spargere la voce, siamo tornati noi del mattino presto di Rock FM, non solo noi di Pane, Burro e Rock and Roll che vi terremo compagnia ogni giorno dalle 7 alle 9, ma anche il buon Chuck Bird con il suo appuntamento targato Early Bird Special che vi terrà compagnia anche lui però dalle 6 alle 7 del mattino, ovviamente sulle frequenze di Rock FM. Dicevo, spargete la voce, finite le vacanze per Rock FM, torniamo a tenervi compagnia voi là fuori che andate ad affrontare questo martedì. Un saluto anche a Laura che per affrontare al meglio questo martedì è in coda in tangenziale, a lei e a tutti gli amici bloccati nella coda in tangenziale ovviamente l'abbraccio più caloroso rispetto a tutti gli altri amici. Pane, Burro e Rock and Roll per tenervi la giusta compagnia sentite qua il buon Spadino. Oggi li hai massacrati, Spadino, eh? Scaletta da signori quella di quest'oggi. Direi che mancava solo lui. Visto Jimi Hendrix, Little Wing, può servire? Dolcezza con Little Wing, Jimi Hendrix, essi, pochi minuti alle 9. Che la miseria. My only friend. This is the end, questa è la fine, come dice giustamente anche Jim Morrison. This è un po' inquietante però. Noi ci risentiamo se lo vorrete domani. Spadino è un po' è un filo inquietante questa chiusura con i Doors, ma continueremo a sperimentare da pane, burro e rock and roll. Io preferirei chiudere alla vecchia, esatto, con una classica sigla di chiusura. È tanto bella la nostra sigla, perché non sentirla? Pane, burro e rock and roll torna domani con la terza puntata. Pane, burro e rock and roll, oppure con la puntata 81, la tua colazione rock, da questa nuova stagione doppia numerazione. Pane, burro e rock and roll, non ci facciamo mancare niente, anche la doppia numerazione. Che ci volete fare? Siamo viziati. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. Eccola. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Tracu, tracu. Ogni giorno alla tracu, mattina ascolta. Tracu, tracu, tracu. Ogni giorno alla mattina ascolto Rock FM dalle 7 alle 9 con PBR e dalle 6 alle 7 con l'Early Bird Special. Prima di salutarvi ricorderei un paio di appuntamenti per il weekend che mi riguardano. Venerdì sera tornerò con il collega, ma soprattutto amico, come direbbe lui, Max Del Riu, nel venerdì infuocato dell'ippodromo di Firenze. Era tanto che mancavamo dal capoluogo toscano, siamo felici di tornare, quindi segnatevelo, amici toscani, venerdì saremo lì. Sabato sera invece, sempre per quanto riguarda DJ set, quindi tentativo di farvi ballare del buon rock and roll, dicevo, sabato sera sarò invece qua a Milano all'Atomic Bar, dove non sono mai stato, ma il buon cantante degli Hot Gossip mi ha invitato e non vedo perché rinunciare all'invito, quindi sabato sera invece sarò all'Atomic. qui a Malen. Direi che è ufficialmente tutto. Se vi siete persi qualcosa, ritrovate la puntata tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora, via, su RadioRockFM.com, nelle sezioni archivio, puntata numero 2 di Pane, Burro e Rock and Roll. Grazie per essere stati con noi, ci si risente domani alle 7 precise.